Vendo tutto di Matteo Caccia. Sono passati più di 3 mesi da quando ho iniziato a vendere tutto. Non è stato facile, però ho pensato che l'obiettivo finale sarebbe valso tutti gli sforzi. La lista dei desideri mi aspetta. Domani realizzo il primo. Mi lancio col paracadute. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme, lo so. Capita a tutti, stavolta è capitato pure a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una lampada. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. E ci siamo arrivati. Sono quasi 3 mesi che la meno con questa storia. È il quarto o il quinto desiderio, però in ordine di priorità diventa il primo. Domani vado a Verona e mi lancio con il paracadute. Devo dire che un pochettino comincio a rifletterci. Non so se avete sentito anche nell'introduzione, forse ero più distratto dal fatto che domani parto col paracadute. Ma per rilassarmi e per tranquillizzarmi c'è al telefono con me la persona con cui spero domani di saltare. Pronto Alberto? Buonasera. Buongiorno Alberto. Alberto Bauca, grazie dell'invito. Grazie a lei Alberto. Alberto Bauca, lei è il presidente della scuola di paracadutismo di Verona, che adesso, Alberto, in 2 minuti mi spiegherà più o meno come mi devo preparare per domani. Cosa devo fare? Ah beh, devi venire all'appuntamento per tempo. Ok. Devi avere una bella curiosità e dentro di te ho sentito che c'è, e noi in pochi minuti possiamo spiegarti tutto quello che devi fare. Quindi si tratta semplicemente di venire vestito, immagino, comodo, no? Comodo, sì, da si dice sempre così. Con sia scarpe che pantaloni comodi, okay. Sicuramente. Poi cosa facciamo? Una riunioncina per capire? Ti spiego un po' la posizione che devi tenere quando sarai agganciato con me dentro l'aereo, no? Nei minuti che precederanno il lancio, mentre saliremo col nostro aeroplano a turbina, è un Pilatus Porter che è l'ideale per fare i lanci di paracadutismo. Sì. Ci porterà fino a 4.000 metri. E quanto dura? Quanto dura la salita, d'ora. Alberto? Mi scusi. Ah, meno di un quarto d'ora. Sì, poi ci guardiamo bene il panorama. Nello stesso tempo, mentre saliremo, ripeteremo tutte le istruzioni, le poche istruzioni che ci sono state date. Sì. Perché alla fine tu sarai un passeggero, insomma. Chiaro, certo. Ecco, il lancio TAN è un lancio che serve anche di introduzione al paracadutismo e poi può diventare anche un veicolo didattico, come naturalmente per diventare piloti di aeroplano bisogna volare, chiaro, con l'istruttore. Insomma, bisogna partire da qualche parte, dice Alberto. Quindi mi hai detto, come vedi sono un po' preoccupato dal tempo. Allora, un quarto d'ora per salire e per scendere invece quanto ci sembra? E poi arriviamo in quota nel punto indicato sopra il nostro aeroporto, e l'aeroplano abbassa la sua velocità, vola orizzontale, quel motore al minimo, e noi ci approcciamo alla porta. Tu assumi una posizione come ti era stata indicata a terra, certo, le istruzioni che ti sono state date, e giù. E lì abbiamo anche, volendo, abbiamo l'assistenza di un video, di un paracadutista detto videoman, che ci aspetta. Quello sicuro. Fuori dalla porta, esce un attimo prima di noi, ci aspetta, e nel momento dello stacco vola insieme a noi e riprende anche la caduta libera. Quello sicuro, perché sarà tutto poi caricato su Facebook e sul sito. Un'ultima cosa quindi, Alberto, poi la discesa in sé quanto durerà, grosso modo? Noi andiamo a quasi un minuto di caduta libera, poi apriamo il paracadute sensibilmente più alti di un paracadutista normale. Noi a 1200 metri avremo il paracadute aperto, avremo fatto quasi 3 km di caduta libera. E poi a questo punto si apre il nostro grande paracadute, grande. E lì ci organizziamo, grande, per l'atterraggio. Bene, organizziamoci. Passano dei minuti perché il paracadute scende. A quel punto andiamo lentini. Ma quindi cosa ci mettiamo? 5, 10 minuti, un'ora? 5-6 minuti siamo a terra. Ah, giustamente, domani danno cattivo tempo da metà pomeriggio. Adesso non sai le previsioni, qui abbiamo una posizione geografica qui a Verona un po' particolare. Abbiamo la Val d'Adige che scende, abbiamo la pianura padana che si apre. Delirio, insomma. Ci sono sempre delle situazioni meteo un po', Alberto, particolari. Alberto, domani mattina sono lì e in bocca. E noi ti aspettiamo pronti per la nostra escursione in alto. Ci vediamo domani, Alberto, grazie mille. Grazie, a grazie presto. A voi, grazie. Saluti e arrivederci. Grazie. The lights start going out. Poof, poof, poof. I was home. sitting here watching television. All the lights go off, television goes off. I go up to the roof, look out, darkness. I looked outside and everything was black. Perché domani mi tuffo col paracadute, ma oggi vendo questo oggetto. L'oggetto che vendo oggi è una lampada che ho comprato quando mi serviva una lampada e che è saltata quando è arrivato un blackout. È di questo che parliamo. Le voci che avete sentito fanno parte di un documentario magnifico che si chiama New York 77, che racconta tutto quello che è accaduto a New York nel 1977. E non sembra, ma a New York nel 1977 sono successe un sacco di cose, tra cui il famoso blackout. Andate a vedervelo, se volete dargli un occhio andate su Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto e lo trovate. Adesso però si parla dei vostri blackout. Vi ricordate l'ultimo blackout che ci ricordiamo tutti? È il blackout del settembre del 2003. Vorrei sapere da voi che cosa facevate e dove eravate quell'anno. 800240024, come Armando che mi scrive: indimenticabile, lavoravo in un albergo, partiva un gruppo di tedeschi e ne arrivava un altro. Immaginate che senza elettricità gli scarichi dei bagni non funzionavano. Pensate cosa ho dovuto fare. 800240024 oppure 349-238-6666, perché parliamo del blackout del 2003, del settembre 2003. Era il 28 settembre del 2003. Io vi racconto la mia di storia, voi raccontatemi la vostra. 800240024. Ora la mia lampada e la mia storia. Radio24.it per vederla, per sentirla. State qui. La lampada. Lampada Take marca Cartel. Colore rosso, progetto Ferruccio Laviani, materiale policarbonato. Dimensioni: larghezza 17,5 cm, profondità 18,5 cm, altezza 30 cm. Realizzata con un processo di iniezione in policarbonato trasparente e coprente, ottima per far sembrare qualsiasi stanza un ambiente traboccante di design. Valore commerciale 55 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Ci sono degli oggetti che nascono male. Forse per un errore di chi li produce o un difetto nella struttura, ma nascono difettati. E non c'è niente da fare, eh? Da quando esiste la produzione di massa, capita sempre che un prodotto su 1000 o su 1 milione, non lo so, esce con un difetto. Non c'è una soluzione a questo problema, non c'è controllo qualità che tenga, semplicemente è così. Punto. Per chi non crede nel destino è difficile dare una risposta a questo fenomeno. Per chi invece crede nei segni, comprare tra migliaia di oggetti quello, l'unico, nato con un difetto, deve essere indice di qualcosa di nefasto. Un po' come pescare la pepa tencia dal mazzo. A me è capitato con questa lampada di design. Questa è l'abat-jour di design che tutti pensano quando pensano ad un abat-jour di design. Linee semplici in plastica trasparente. Comprata il giorno dopo che la mia vecchia abat-jour da comodino era andata in frantumi, durante una colluttazione notturna con Giulia. Quel giorno sono andato allo spaccio della Cartel, qui vicino a Binasco, vicino a Pavia. Mi sono preso questo modello, forse l'unico da comodino. È una roba che sembra uscita dallo stampo senza che gli abbiano tagliato via la plastica in eccesso. In fondo però è proprio il suo bello. L'ho presa, sono arrivato a casa e boom, sorpresa, avevo pescato la pepa tencia. Cioè, tra tutte le lampade dello spaccio, mi ero preso l'unica con un difetto di fabbricazione e quindi non funzionava. Ci ho provato, ho cambiato due lampadine, ma niente. Ho provato a ravanare un po' con il cavo dell'alimentazione, niente. Alla fine ho composto il numero verde e dall'altra parte una signorina molto gentile mi ha detto che non c'era nessun problema. Bastava tornarsi al negozio con lo scontrino e me l'avrebbero cambiata immediatamente. Dunque, era metà pomeriggio quando feci quella telefonata. Quindi fossi uscito subito da casa, probabilmente ce l'avrei fatta a raggiungere il negozio e fare tutto in meno di un paio d'ore. Ed effettivamente qualcosa dentro di me sapeva che quella era la cosa giusta da fare. Sentivo da una parte la voce di mia madre che ripeteva: chi ha tempo non aspetti tempo. Però dall'altra parte sentivo un'altra voce, di non so chi, forse la mia, che diceva: non fare oggi quello che potresti fare domani. Perché effettivamente a pensarci i proverbi hanno questa roba, no? Questa caratteristica, che per uno che dice una cosa ce n'è sempre un altro che afferma il contrario. Quel giorno scelsi di seguire la mia inclinazione più pigra e decisi che a cambiare la lampada ci sarei andato il giorno dopo. Anzi no, lunedì, perché il giorno dopo era domenica. Ecco, accade così che quella lampada rimase inutilizzata e fallata nella sua scatola per quasi un anno. Avevo addirittura trovato il modo per aggiustare quella vecchia, visto che giorno dopo giorno quel semplice tragitto da casa mia al negozio di lampade diventava un ostacolo sempre più insormontabile. Mi pareva che non ce l'avrei mai fatta. Era chiaro che quello che non sarei stato capace di fare non era andare a farmi cambiare una abat-jour, ma vincere la mia pigrizia. Ecco, quella era la sfida che mi spaventava. poi, un giorno caldissimo d'estate, Giulia mi disse che probabilmente c'era un tempo massimo entro cui poter sostituire gli acquisti. E senza pensarci due volte, mi catapultai a cambiarla. Appena tornai, infilai la spina nella presa e la luce s'accese, manco fosse il giorno della creazione. Ma un secondo dopo, non due, un secondo dopo, un fulmine colpì il tetto della casa e la corrente saltò. Ecco, quella volta fu Giulia, non io, a decidere che con quella lampada avevamo chiuso. La rimisi nella scatola ed eccola qua. I blackout mi hanno sempre spaventato. Non per il buio in sé, ma per il potere che hanno di rimestare nelle mie paure ataviche. Quello della lampada dell'abat-jour non fu un blackout vero e proprio, visto che bastò sollevare il salvavita e la corrente tornò in un colpo solo. Ma non fu un blackout soprattutto perché fuori da casa la luce c'era, e come era in casa che non c'era. Il primo vero grande blackout che mi ricordo però è stato quello del settembre del 2003. Quella fu la volta in cui sperimentai realmente la sensazione di buio fuori. Quel giorno ero a Roma, ospite a casa di Mauro e Giulia, una coppia di amici. Loro erano in vacanza e mi avevano lasciato la casa tutta per me. Era il 28 settembre, a Roma c'era la notte bianca. Musei aperti, spettacoli, concerti in giro per la città. Io ero stato un po' a zonzo, poi me ne ero tornato a casa. I miei amici abitano vicino a Piazza del Popolo. Mi piace stare a casa loro, perché al settimo piano si vedono i tetti di tutta la città. San Pietro da una parte e Villa Borghese dall'altra. C'è il terrazzo in comune, in cima al condominio. Si stendono i panni e si vanno a vedere le stelle, la notte di San Lorenzo. Mi piace Roma. Roma ha un'aria sorgnona. C'è un'atmosfera vaga, è diversa da Milano. Milano sembra andare tutta in una direzione. Non so bene quale, ma va tutta da una parte. Roma invece sembra gironzolare un po', come un bambino che cerca un nascondiglio. È come se tutti si fossero appena svegliati e mettessero per la prima volta nella giornata il naso fuori casa. Il giorno della notte bianca del 2003, Roma sembrava essere tutta per le strade. Erano le 3:20. Io avevo la televisione accesa, ma giusto per farmi un po' di luce mentre me ne stavo andando a dormire. E all'improvviso, puff, buio. All'improvviso, perché il buio, quello vero, non ti dà il tempo di prepararti. Sa, non è un tramonto che ti avvisa che a breve non vedrai più niente. Il buio, quello che fa paura, arriva mentre sei impegnato a fare altro. Io mi stavo spogliando quando rimasi da solo nel nero. Credevo che fosse saltato al salvavita, quindi già pensavo di chiamare Mauro. Poi invece mi accorsi che non filtrava luce dalle finestre e guardai fuori. Roma era nera. Scesi in strada. Non so se avete mai camminato su una strada senza nemmeno una luce. Perché un conto è una strada isolata e buia. Un conto invece sono le strade di una città come Roma, completamente buie. Beh, la sensazione è strana. Sembra che improvvisamente tutto potrebbe accadere. Coperte dal buio, le persone che incontri potrebbero essere chiunque e fare qualsiasi cosa. Perché se non si sa chi sei, puoi fare quello che vuoi. Quella notte ovviamente non mi successe nulla. Ma sarà stato per i rumori intorno a me, sarà per i suoni degli allarmi scattati nella città. Però quella notte ho avuto la sensazione che la soglia tra la civiltà e la barbarie fosse sottile come il filo di una lampadina di incandescenza. Acceso o spento fa la differenza tra il seguire delle regole e non farlo più. Ecco perché, anche se la vendo, a questa abat-jour un po' ci sono affezionato, perché mi ricorda che la civiltà ha a che fare anche con la luce. Il suo valore è di 55 euro, la base d'asta qui sono 99 centesimi. Se avete voglia di raccontarmi il vostro blackout del settembre 2003, blackout un po' come il lancio col paracadute colpisce veramente le coscienze. Nicola da Roma mi scrive: c'ho l'ansia solo a sentire la spiegazione della salita dell'aereo e poi della discesa. Vai al lancio a stomaco vuoto, così non te la fai addosso. Veniamo invece al blackout del 2003, perché mi scrivono: Andrea da Modena, ero a letto, ascoltavo la radio, poi si è spento tutto. Ho continuato l'ascolto con un Walkman a pile, si sentivano solo Radio Rai. Mi resi conto subito che il problema era grossino. Scesi in auto, tutto buio. Paolo da 90 Vicentina: quella notte ero di servizio come guardia particolare giurata, senza gran parte delle luci in giro, è stata una notte più buia del solito. Emilio: rientravo con altri due amici da un torneo di bowling a Zurigo, eravamo all'autogrill di Fino Mornasco e tutto si è spento. C'è qualcuno però che l'ha vissuta ancora più da vicino, era in quel momento in Sicilia e ci chiama da Catania, è Giovanni. Pronto Giovanni? Ehi, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, stai bene? Tanto sei grande. Sì, sto bene, sto tornando a casa dopo il turno. Ammazza, ma sei in mezzo alla strada Giovanni? Sono fermo in autostrada in corsia d'emergenza. Senti, tu dov'eri e cosa facevi quella notte? Allora, io lavoro in turno a Catania, presso l'Enel, al centro operativo. Quella notte ero in turno. Quindi anche un po' colpa tua. Vuoi dire che abbiamo trovato il responsabile del blackout del 2003, Giovanni? No, assolutamente no. Io mi occupo di tutt'altro. In ogni caso, sì. A un certo punto, alle 3:20 di notte, mentre stavo parlando con un collega che stava riparando un semplice contatore a casa di una umile persona catanese, sì. A un certo punto si è spento tutto. Il collega mi fa: senti, vedi che secondo me forse è andata fuori servizio la linea. Dico: penso di sì, perché anche qua siamo rimasti al buio. Allora chiamo immediatamente Palermo, da cui dipendiamo. Faccio: senti, vedi che qua è rimasto tutto al buio, compresa l'ufficio dove lavoriamo. Anche qua a Palermo. Dice: bene, ma allora siamo completamente al buio. Penso proprio di sì. Ma senti, ma quindi uno che fa quel lavoro lì, in quell'occasione, cosa può fare? Niente. Va a casa. Ah, ok. No, a casa no, siamo rimasti lì anche perché poi, diciamo, la ripresa del servizio è stata curata nei minimi dettagli. Io vi ricordo. Quanto ci ha messo a tornare la luce lì in Sicilia? In alcune zone parecchio. Adesso con precisione non me lo ricordo, però parecchio. Ma poi, scusa, ci sai dire velocemente da cosa era stato causato alla fine sto blackout? Non lo so. Okay. Quello che si è letto sui giornali. Sovraccarico di energia, diciamo così, insomma. Un po' come quando attacchi la lavatrice, la televisione e lo stereo. Grazie mille Giovanni, buona giornata. Ciao, alla prossima. Stiamo a Milano, andiamo da Mauro. Pronto Mauro? Ciao. Tu dove eri? Mi fa sorridere un po' la persona che parlava prima, appunto, dell'Enel, che non si ricorda. Giovanni, appunto, che non si ricorda, non sa da che cosa dipendeva. Se non ricordo male, in quei giorni si disse che un albero era caduto dalla parte francese e aveva rotto un cavo, rotto una centralina, e questo aveva causato poi degli scompensi che avevano generato questo sovraccarico. Sì, questa mi sembra una scusa che avrei potuto dire io, tipo, sì, perché sì, mai è caduto un albero? Sì, una scusa di questo. Tu dove eri, Mauro, invece? La mia esperienza è questa. Io stavo tornando dalla discoteca, tu prima hai detto alle 3:20 è successo, sì, di notte, sì, giusto? Sì, sì, allora ricordavo bene. Sì, comunque tornavo dalla discoteca, sì. E la cosa che io ero a Milano in quel momento, in via Ripamonti, in una zona molto trafficata, sì. E ricordo quella sensazione che descrivevi proprio prima, il buio, quello senza nessun tipo di rifrazione di luce, è una cosa particolarissima, perché anche nel buio, una strada, io vivo in campagna, quindi so cosa vuol dire buio senza lampioni, sì. Ma non avere nessun tipo di rifrazione di luce, né che ti proviene da vicino, nemmeno da lontano, significa proprio perdere completamente l'orientamento e perdere completamente il senso della profondità. Mauro, ti ringrazio. Quanti anni hai tu? 32. Quindi ne avevi nel 2003? 7 di meno. Ne avevi 20 qua, 25 anni. Grazie mille Mauro, buona giornata. Ciao, alla prossima. Ciao. Dovevo partire per l'Erasmus, ho preso l'aereo per pura fortuna, con grande delusione del mio ex moroso che pensava che sarei rimasta a casa. Laura da Padova: io ringrazio tutti, vi do appuntamento a lunedì. Grazie a Laura, Tiziano, Alessandro Genovesi e Polino Corleoni. La Bajura è sul sito, andate a vederla. Lunedì invece vendo un corso di francese. Voi fate un buon fine settimana. Scusatemi l'emozione. Io del mio salto col paracadute, se riesco ve ne parlo lunedì.